La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 da Oscar Giannino, qui alla versione di Oscar. Siamo in diretta a 16.37 praticamente, 16.30 è una, insomma, una cosa che, come avete visto, tende a sfilare. E grazie anche a chi ci segue in podcast, perché questa è un'ora un po' particolare, un'ora in cui Radio 24 cambia, per così dire, marcia dopo l'ottimo Matteo che mi precede. Torniamo invece su notizie, approfondimenti di carattere economico, e poi prosegue con Focus Economia. Allora, prima di andare al tema del giorno, il tema del giorno è il rigurgito dello statalismo. Ne abbiamo già parlato sulla partita all'Italia, e non solo all'Italia, a Telecom, Ansaldo e così via. Voglio semplicemente dirvi una cosa che è in linea di continuità con le trasmissioni di questi giorni che abbiamo doverosamente dedicato alla legge di stabilità. Avete visto che basta aspettare uno o due giorni e a quel punto avviene una specie di giustizia automatica delle parole d'ordine con cui i governi presentano in serata tarda, in maniera tale da avere i titoli dei giornali, poi manovre senza corredarle di testi e di numeri. E in capo a due giorni si capisce che quegli slogan poi sono privi spesso davvero di conferme. Quindi lo slogan, per esempio, niente nuove tasse, adesso che tutti iniziano a guardare bene cosa c'è dentro, si scopre che è ingiusto. Non solo per quelle di cui abbiamo già parlato, la stangata nuova sul risparmio. Voglio soffermarmi su un punto, perché ha a che vedere non solo con le nuove tasse, ma col tema di oggi. La cosa che mi sorprende, e lo dico innanzitutto per la stampa, non solo per i politici, è come tutti a ogni finanziaria arrivino dimenticando quello che c'è già, che sta già avvenendo, che è già scritto nelle tabelle del DEF, che conosciamo da mesi, cioè gli aumenti di imposta automatici pluriennali, come quello delle minore detrazioni IRPEF dal 19 al 17% se non si fanno i tagli di spesa. E invece il governo sembra scoprirlo all'ultimo secondo per non fare i tagli di spesa, ma c'è anche una colpa nostra, dell'informazione, perché noi dovevamo incalzarlo prima il governo. Io parlo più o meno sempre delle decine di miliardi di nuove entrate aggiuntive, quindi più tasse, previste di qui al 2017. Molte volte scopro che l'informazione invece fa finta di non sapere, oppure non sa davvero quello che è già stabilito che avvenga, cioè le nuove entrate. Naturalmente, così facendo, noi ci comportiamo esattamente come in Alitalia hanno fatto i capitani coraggiosi, quando, essendo già evidente negli ultimi due anni che con quel modello di business andavano a sbattere, hanno dovuto aspettare fino ad avere il patrimonio negativo per poi mettersi in ginocchio, avere le banche che chiedono la tutela, ed ecco che lo Stato interviene. L'ospite con cui parliamo di tutto questo ha scritto anche oggi un nuovo articolo, lo trovate sul Foglio, sulla vicenda Alitalia-Stato, e sostiene una tesi, della quale sono convinto anch'io, ma sostiene una tesi, cioè che è aiuto di Stato, è improprio, che la Commissione europea deve sanzionare l'ingresso di Poste con denaro pubblico, perché loro per primi dicono che non è dalla raccolta di mercato quello con cui intervengono nella società. Allora, è con noi Carlo Stagnaro, che è il direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, che io saluto e ringrazio. Grazie di essere con noi, Carlo. Buongiorno e grazie a lei. Allora, perché lei scrive questa intemerata che la attira, le accuse di essere un anti-italiano, e cioè che la Commissione deve intervenire e dire no, questo è un aiuto di Stato, non si può fare? Anzitutto io credo che l'accusa di essere anti-italiano vada rivolta a chi viola le regole, e anche quelle europee sono regole che siamo tenuti a rispettare, e a chi continua a prolungare l'agonia di una compagnia che era fallita 5 anni fa, è fallita oggi e sarà fallita nei prossimi mesi o anni se non riusciremo a, in qualche maniera, a venderla ad altre compagnie più grandi. Il secondo punto, che è quello relativo agli aiuti di Stato, è molto banale. La normativa, la disciplina comunitaria dice che sono illegali, non sono consentiti gli aiuti di Stato che hanno l'effetto di falsare la concorrenza attraverso operazioni che non sarebbero state compiute da un normale soggetto di mercato. Che l'operazione che vede come protagonisti Poste da un lato e le banche soggette a forte moral suasion da parte del governo dall'altro sia totalmente al di fuori dei canoni di mercato emerge in maniera molto chiara e molto netta da due cose. La prima sono le dichiarazioni del primo ministro Letta, ha detto abbiamo obbligato i capitalisti a mettersi i soldi, del ministro Lupi, che ha ribadito più volte come il regista dell'operazione fosse il governo, e di altri ministri. Non solo questo, in secondo luogo le Poste stesse sono intervenute, hanno deciso di intervenire alla cieca, senza saper nulla del piano industriale di Alitalia e così via, solo dopo una disperata ricerca da parte del governo di qualcuno che ci mettesse i soldi, che aveva portato il governo a vedersi sbattere la porta in faccia da altre aziende pubbliche. I giornali hanno riportato, e non credo sia stato smentito, che i vertici della Cassa Depositi e Prestiti hanno minacciato le dimissioni in caso fossero stati costretti a intervenire in Alitalia. Molte obiezioni si levano a questo tipo di impostazione, perché lei con l'Istituto Bruno Leoni avete anche inviato una vera e propria segnalazione alla Commissione Europea. Il testo, per chi volesse approfondire, si trova sul Leoni blog, sul blog dell'Istituto Bruno Leoni, però molti vi rispondono: ma insomma, è questi qua che vogliono sempre fare i primi della classe. In definitiva, poi in Air France c'è lo Stato c'è in Deutsche Telekom, lo Stato c'è nell'operatore telefonico ex monopolista francese. Ma perché dovremmo essere i primi della classe quando lo Stato altrove, questa è l'impressione di molti, non viene sottoposto a questi vincoli che invece voi invocate solo per l'Italia? Che cosa c'è di vero in questa specie di asimmetria per cui noi saremmo, per così dire, i figli di una gallina sbagliata rispetto agli altri paesi europei? Ma quando io ero bambino mia mamma si arrabbiava se ero l'ultimo e non il primo della classe. Dovrebbe essere così anche nei nostri rapporti con chi ci governa. Dovremmo pretendere che loro siano i migliori, i più bravi, i più efficaci, non gli ultimi della classe, quelli che riescono a sfangarla pur ignorando le regole. Ma detto questo, l'Italia ha molto da guadagnare dal ridurre la presenza pubblica, particolarmente in un settore come quello del trasporto aereo, che è un settore intensamente competitivo. Quello che conviene agli italiani, siano essi cittadini che viaggiano, persone che viaggiano per lavoro, operatori del turismo che ricevono i viaggiatori, è avere un trasporto aereo efficiente e che consenta a chiunque di raggiungere qualunque luogo al costo più basso possibile. L'ha scritto molto bene Pietro Ichino sul suo sito. Se Air France o chi per lei acquisirà l'Italia e riterrà di utilizzare Parigi piuttosto che Monaco, Londra o quello che le pare a lei come hub, la ragione è che questo sarà conveniente, consentirà di fare offerte migliori ai viaggiatori e in ultima analisi di portare più persone in Italia, non meno persone in Italia. Che però è esattamente un'altra obiezione che viene mossa alla nostra impostazione, quella di chi ragiona come Carlo Stagnaro, ed è quella di chi casi di compagnie, ex compagnie di bandiera nazionali, che poi hanno dovuto ammainare bandiera perché sono andate praticamente fallite e sono state poi inglobate in operatori più forti, e quindi i casi che vengono citati sono quelli della Sabena belga, quelli della Swiss Air svizzera e così via, hanno visto invece per un bel po' di anni crollare il traffico, che è esattamente la cosa che viene invece invocata come ragione di fondo sia dal governo che da chi difende l'intervento del governo, dicendo no, noi non possiamo fare la cenerentola dell'Air France, come ha detto il ministro Lupi. Allora, a questa obiezione Carlo Stagnaro ci risponde tra un minuto, perché adesso abbiamo l'informazione stradale e poi torniamo con lui. La versione di Oscar. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, e un abbraccio all'ascoltatore che ci ha mandato un SMS in cui dice: voi state parlando di un'azienda che lo Stato definisce strategica per aiutarla in continuità, noi avevamo 45 dipendenti, poi siamo scesi nelle difficoltà, 36 dipendenti in cassa integrazione, ora siamo costretti a chiudere il concordato per via del fatto che siamo rimasti indietro con le imposte e per via del fatto che le banche ci avevano stretto il credito. Ecco la asimmetria. Quindi altra riflessione, poi ci arriveremo a cosa vuol dire la strategicità degli aiuti di Stato, perché molti altri dicono anche: ma come, dovunque gli Stati hanno salvato le banche, e quindi perché non anche all'Italia, perché gli altri Stati sì e noi no? Ma ripartiamo dall'obiezione: le altre compagnie che sono finite sotto le grandi in difficoltà economiche hanno avuto poi per anni il minor traffico, ci hanno perso quindi anche l'economia nazionale, è così, Stagnaro? Ma sicuramente si è ridotto il traffico in transito negli aeroporti, che prima erano hub e poi hanno smesso di esserlo, e questo è indubbiamente un problema per chi gestisce gli aeroporti. Non è necessariamente un problema per il paese, sarebbe un problema per il paese se in virtù della cessione della compagnia o del fallimento della compagnia aerea di bandiera il paese diventasse più irraggiungibile. Ma quanto mi consta non è che in Svizzera si vada ad orso di mulo e in Belgio si debba necessariamente andare in carrozza. in Svizzera e in Belgio si arriva in aereo tanto come prima, probabilmente meglio di prima, condizioni più competitive e migliori. Allora, invece sul fatto che in questi anni ci sono state dovunque ondate di nazionalizzazione, la mia risposta è che attenti le banche, anche se questo può non piacerci, perché infatti la mia voce era tra quelle critiche sul fatto che i salvataggi bancari fossero la risposta, però le banche non sono esattamente come le compagnie aeree, o no? Assolutamente, al netto di quello che diceva lei, cioè che non necessariamente il salvataggio delle banche esatto. È la cosa giusta e che a volte nella vita succede che vincono i cattivi, in ogni caso il fallimento di una banca può creare problemi sistemici che in tutta evidenza il fallimento di una compagnia, diamo il numero, che rappresenta il 20% del traffico nazionale, non genera nessuno di questi problemi e anzi determina e ha determinato nel passato problemi di altro segno se viene mantenuta in vita all'interno di un polmone artificiale, tant'è che periodicamente siamo qua a discutere di come evitare il fallimento di Alitalia e a iniettare dentro la compagnia di bandiera soldi pubblici o parapubblici. No, lei quando ha detto il 20% immediatamente gli ha ascoltato un ascoltatore ha detto come il 20%? E la prima, e la Ryanair dice che è la prima ma lo dice da 2 anni, non diventa mai la prima. State attenti ascoltatori, perché essere la prima o meglio forse la seconda come numero di passeggeri movimentati non significa che la quota che si ha è il 51%, quindi stiamo parlando esattamente di un quinto del traffico nazionale, perché poi in questi anni a furia di fare il breve medio raggio le altre compagnie che invece avevano modelli di business che hanno consentito loro di investire per tempo sui voli intercontinentali su cui si fanno soldi, perché la vera ragione è che l'Italia è sempre stata con l'acqua che saliva e per questo si è trovata, sia pur privatizzata, ad avere una flotta di quel tipo che gli ha impedito di fare soldi in questi anni, era sbagliato il modello di business, ecco il motivo per cui il resto del traffico si è orientato su altre compagnie. Altra obiezione, Stagnaro, siete per il mercato ma in realtà tifate per le low cost che beccano i soldi anche loro dalle autorità aeroportuali, soldi pubblici. No, io non tifo per le low cost, io tifo per chi soddisfa i consumatori, che in alcuni casi sono le low cost, in altri casi no. Detto questo, è vero che vi sono episodi in cui le low cost, Ryanair, eccetera, ottengono delle sovvenzioni dalle regioni, non ho nessun problema nel dire che sono contrario, tanto quanto al salvataggio di Alitalia, anche alle sovvenzioni da parte delle regioni agli aeroporti, problema dal quale si esce in maniera molto semplice, privatizzando gli aeroporti e lasciando che quando un aeroporto non riesce a stare in piedi fallisca e chiuda. Un altro ascoltatore ci dice, no Stagnaro, è sbagliata l'iniziativa della segnalazione alla Commissione Europea perché le poste non, l'ha ripetuto 3 volte, non sono lo Stato. Che dice? Le poste sono dello Stato, appartengono al 100% al Ministero dell'Economia e soprattutto, quello che è rilevante in questo caso, sono state coinvolte su richiesta del governo, come sta scritto nel comunicato stampa del governo, come ha detto l'amministratore delegato di Poste in varie occasioni, e soprattutto sono intervenuti alla cieca in assenza di un piano industriale senza neppure sapere a quale quota azionaria corrispondessero i 75 milioni impegnati. Su questo inciso, rendetevi conto, cari ascoltatori, di perché la notte è andata lunga nel consiglio d'amministrazione, per così dire, dell'Alitalia, una volta che fosse che era chiaro che Poste ci metteva i suoi 75 milioni, e c'erano svariati problemi. Primo problema, come avete capito, la richiesta delle banche di non metterci altri soldi è così fondamentale nell'intervento di Poste per tutelare le esposizioni bancarie, che infatti le banche l'hanno fatto mettere a verbale in una lettera che è stata letta in assemblea. Seconda cosa, si è determinato il valore residuo di Alitalia alla luce dei 75 milioni di Poste, non viceversa, non so se è chiaro, questo è un particolare che dovrebbe indurvi a riflettere. Poi, altra cosa, infine, una delle cose di fondo per determinare gli aiuti di Stato o meno è che le risorse con cui si interviene devono essere proventi di mercato. In questi giorni Poste sta ripetendo a tutti che non interviene con la raccolta che fa sul mercato, cioè quella del risparmio postale, che sono oltre 300 miliardi tra i diversi strumenti. Allora, se non interviene con la raccolta che fa sul mercato, per la libera scelta di tanti italiani che gli affidano risparmio postale, Stagnaro, diventa un aiuto di Stato automaticamente, perché anche in quel caso sono loro a dircelo oppure no? Non è automatico il fatto che l'impiego di soldi di Poste, cioè dei contribuenti che sono azionisti attraverso il Ministero dell'Economia, implichi l'aiuto di Stato. Diventa aiuto di Stato nel momento in cui soldi di questa natura vengono impegnati per finalità determinate dalla politica in maniera del tutto trasparente. È stato detto da tutti gli attori in commedia che l'intero intervento, ribadisco questo concetto, può esistere in virtù di una regia attiva da parte del governo. Addirittura il ministro Lupi, in un'intervista al quotidiano Italia Oggi di ieri, parla della cessione di Alitalia in prima persona plurale. Quando venderemo Alitalia? Se la venderemo noi, evidentemente non si riferisce a noi italiani in quanto tali, perché Alitalia non è di noi italiani in quanto tali, è perché ritiene il ministro Lupi di essere indirettamente uno dei controllanti della compagnia di bandiera. Direttamente, quando si parla così. Io ringrazio Carlo Stagnaro per aver risposto ad almeno alcune delle tante domande che vengono poste da chi obietta perché siamo troppo mercatisti, Giannino, Stagnaro, Mingardi, Franco De Benedetti, siamo anti-italiani. No, queste sono le risposte precise alle vostre obiezioni, per così dire. Ricordatevi che tutti i fallimenti dello Stato che ha gestito, come dei privati che hanno gestito, derivano da aver saputo fare il loro bene, il loro mestiere. E sui mercati vince chi sa fare meglio il mestiere. Dopodiché esiste nel nostro ordinamento procedure concorsuali che garantivano la continuità dell'azienda senza mettere lo Stato di mezzo. Comunque, appuntamento a domani, restate su Radio 24.